Sono le 21 in punto qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Penultimo appuntamento stagionale di prove tecniche di trasmissione, già che il 29 luglio per l'appunto ci prenderemo una pausa che coinciderà da lì a poco anche con la pausa che tradizionalmente si prende la radio in agosto per circa 15 giorni. Per quanto mi riguarda tornerò nei primi giorni di settembre. Allora, www.ondarossa.info, il nostro sito internet. Indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder ci sarà naturalmente la registrazione di questa puntata odierna. Oggi è il 22 luglio del 2020. Ricordo il radio abbonamento che andrà avanti fino al 30 settembre. C'è questo banner che si può trovare sul sito della radio e ci si clicca sopra, si legge attentamente tutto quanto e si può scegliere la modalità eventualmente per aderire a questo abbonamento, che consiste in 30 euro per 1000 ascoltatori, abbonamento annuale ovviamente. Una delle forme ormai fondamentali per l'esistenza di Radio Onda Rossa, già che le iniziative nei centri sociali e diciamo il finanziamento tra virgolette normale non può più bastare, quindi necessita questa forma di radio abbonamento. A 25 o'clock questa sera intorno alle 23, naturalmente dopo il sottoscritto. Salutiamo Nicolò Locci dalla Sardegna, Marco qui a Roma, Stefano Bertoli di Andromaca, Antonio Zoviet di Omicidio ci sta ascoltando da Firenze. Un saluto a Daniele Santagiuliana di Tustin Vogt. Roberto Faloci di Phantom Ship dall'Umbria, un saluto a Warnos Island dalla Piemonte. Giovanni Lisi, Cordis Cincti Serpente da Bari, Emanuele Fais dalle Marche, Pioggia d'Ambra, Boschivo, eccetera, eccetera. Laura Spiricrusher da Frosinone, Dario Arrighi di Progetto Non Eme, che ascolteremo più tardi, ci sta ascoltando dalla Toscana. A Bergamo Francesco, che salutiamo. Noi si va ad iniziare deliziandoci anche questa sera con questa interessantissima compilation che esce attraverso Late Tower Records, etichetta di Raffaele Pezzella, dedicata all'inferno di Dante. Infatti si chiama Demonology in Dante's Inferno, dove viene fatto il punto, o meglio viene messo a fuoco l'inferno appunto di Dante Alighieri, della Divina Commedia naturalmente, soprattutto dal punto di vista dell'aspetto dei cosiddetti demoni, figure più o meno simboliche presenti nell'opera. E quindi una serie di artisti italiani e stranieri si sono prestati a comporre dei brani molto interessanti prendendo spunto da passaggi della Divina Commedia. Questa sera è il turno di Daniel Barbiero e Cristiano Bocci, vecchia conoscenza qui a prove tecniche di trasmissione, che ci farà sentire Male Branche, e poi anche il buon Gianluca Becuzzi con Stavimino Assorribilmente. Era Male Branche di Daniele Barbiero e Cristiano Bocci. In odore di musica contemporanea, dodecafonica, contemporanea, sperimentale. Una delle tracce più visionarie di questo lavoro, che prende spunto da questo classico della letteratura, appunto la Divina Commedia, e nello specifico l'Inferno. Le percussioni che danno l'inizio a Stavvi meno assorbibilmente sono quelle di Gianluca Becuzzi. We'll be right back. Anche per questa sera due passaggi da questa di Monologi Is Dante's Inferno con Cristiano Bocci, che salutiamo insieme a Daniel Barbiero e Gianluca Becuzzi in questa Stavi Minos Ribilmente molto particolare, che conferma la tendenza alla percussività di Gianluca Becuzzi, ma la traccia è arricchita anche da queste chitarre quasi doom metal. Saluto anche Daniele Santagiuliana di Test in Vault, che nella ripresa a settembre andremo a sentire con il suo ultimo interessantissimo lavoro. Saluto anche Like Awake qui a Roma, storico progetto Ambient. E dunque lasciamo questa compilation del Late Tower Records e andiamo in Germania, Einstürzen der Neubauten. Phase 4, The Box Set, la versione allargata di Alles in Allem, ultimo lavoro uscito nel maggio di quest'anno attraverso la Potomac, credo proprio alla loro stessa etichetta. Ci ascoltiamo la Guillotine de Magritte, Civilisatorisch, Missgeschick e Count into Existence, le ultime tre tracce di questo secondo CD. The Magritte. I'm sorry for my afterlife, I haven't changed it yet. The delinquent is not yet ready for Magritte's guillotine. do you count into existence? Un, deux, trois, quatre. How do you count into existence? Un, deux, trois, quatre. Smaller or larger galaxy clusters. How do you count into existence? Termina dunque questa sera il nostro viaggio attraverso l'ultimo lavoro di Einsturz and Neubauten. Questa versione allargata di Alles in Allem, Face for the Box Set, e anche questa sera tre tracce dal secondo CD che riprendeva in versioni diverse brani dal primo, con qualche inedito. Brani che alternavano, diciamo, l'ultima tendenza Neubauten alla ballata quasi intimista, ai fulgori iniziali, che per quanto riguarda il sottoscritto sono i più graditi. Comunque è un album che si può promuovere tranquillamente. Saluto Gianluca Becuzzi in prova uno spettacolo che andrà domani live, credo in Toscana, non mi ricordo il posto, comunque facile andarselo a cercare per chi è da quelle parti. Un saluto a Maria, un saluto a Jean-Claude Bertot in quel della Val d'Aosta. Und hier kommt ten grand goalie. In questo periodo abbiamo accostato i Neubauten e i loro 40 anni di attività ai 40 anni dei Laibach. Una singolare coincidenza per quanto riguarda l'esistenza di questi due progetti fondamentali per quanto riguarda un certo tipo di industrial. In queste occasioni Laibach hanno rivisitato, infatti si chiama Laibach Revisited, il loro primo lavoro del 1985, una rivisitazione, un allargamento che arriva a 3 CD, peraltro scaricabili in free download da archive.org, che riprende anche delle tracce inedite, una parte vengono rivisitate secondo l'odierna sensibilità Laibach e molte molte tracce dal vivo. Per questa sera ci ascoltiamo Mi Cugiamo Boxers Nost, e mi scuso ovviamente per lo slavo assai scadente, e poi Brat Moi. Рознитися, поширив, розплюнтив вихаря. І один смог, із нас був вас і ждав. Планка наша, інсенція на розгарі. Benissimo, speriamo di non aver annoiato con questo ennesimo passaggio di Laibach Revisited. È bello comunque, almeno per quanto mi riguarda, risentire la fase più monumentale, avanguardista di Laibach degli esordi, con il vecchio cantante Thomas Olsnick, Mukuyemo Bodoksnost e Brat Moi. Per questa sera, da questo triplo Laibach, ripeto ancora una volta, una grossa occasione per scaricarselo in free download da Archive. Salutiamo, chissà se ci sta ascoltando, Takako Ikehata da Tokyo, Giappone. Noi torniamo qui a Roma, anzi arriviamo qui a Roma, torniamo in Italia con Elnat Project, una delle novità più interessanti di questo 2020, questo Feedback Works. Una delle espressioni più azzeccate di drone, experimental industrial noise, insomma quegli elementi che a noi piacciono tanto e che in parte ci rimandano alla tradizione pansonic, esce attraverso la Human Hold Recordings. E oggi ci ascoltiamo gli ennesimi due codici misteriosissimi, ossia S3LU e YR62 per Elnat Project. Ampio spazio dedicato anche per questa sera a questo progetto romano di Alessandro Ciccarelli, Elnat Project. Ricordo, il nome viene da una stella molto lontana, di una costellazione altrettanto lontana. Codici misteriosi arricchiscono questo Feedback Works, una delle novità più interessanti di questo 2020. Da seguire anche perché è uscito recentemente un altro, tra virgolette, mini album con due pezzi molto lunghi, molto più ambient e immobili di quelli che ci siamo ascoltati in Feedback Works, comunque da seguire. Sempre Italia, andiamo in Toscana, progetto No Name, Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana, Pandemia è il loro ultimo lavoro, che è stato scritto ovviamente, come si può intuire dal titolo, durante il periodo più duro di lockdown che ha caratterizzato tanta parte della nostra vita. Per molti musicisti è stata chiaramente, non mi sorprende, fonte di ispirazione. E anche nel caso appunto di progetto No Name. Per cui questa sera ci ascoltiamo due brani dai titoli misteriosissimi. Uno è 25, l'altro è Sassien Rero Azzali. Chiaramente se c'è qualcuno di loro, credo ci sia Dario, ci può anche spiegare il significato di queste due tracce, queste due improvvisazioni più o meno casalinghe, di indubbio spessore.